Siamo al telefono con Amedeo, direttore artistico di Oltre Festival e Oltre a Mare Festival. Intanto ciao Amedeo, e come stai? Com'è la tensione, diciamo, l'atmosfera a poco tempo, ormai meno di un mese dall'inizio del festival? Sì, praticamente manca quasi un mese, diciamo che abbiamo festeggiato due giorni fa proprio il mese preciso, insomma, no, siamo tutti quanti pronti e aspettiamo, insomma, non vediamo l'ora di cominciare il festival. Diciamo che già sono iniziati i lavori del montaggio del palco sul parco di Caserme Rosse e quindi stiamo già procedendo, insomma, spediti verso tendenzialmente il festival proprio. Praticamente sarà dal 23 fino al 25 giugno, praticamente abbiamo già annunciato gran parte della line-up, ora mancano pochissimi nomi, però diciamo che il calendario è già pieno, insomma. Allora, ecco, i nomi annunciati magari li lascio dire un po' a te, sono molto, molto diversi tra loro nelle tre giornate, c'è roba più hip-hop, roba più anche verso la trap e qualcosa di indie rock. Vuoi raccontarci un po' come sono state scelte, magari anche la suddivisione di queste giornate di festival? Sì, praticamente diciamo che il concept del festival è un po', insomma, diciamo di intrecciare i diversi generi, di andare oltre ogni stereotipo sia di genere che di genere musicale, insomma, quindi di mescolare più sonorità possibili dentro il festival che dentro le giornate. Il 23 giugno, che è il primo giorno, ci abbiamo Car Brave, che sta uscendo con un nuovo album che esce ad inizio di giugno. Poi c'è Rosa Chemical, insomma, che è stato, diciamo, uno dei protagonisti del festival di Sanremo, e Rose Villain, che è una giovane emergente, però già nota a tanto pubblico. Poi il 24 giugno invece ci abbiamo Verdena sul palco, che è il palco di Sequoie, mentre sul palco di Bonsai ci sarà Nazca. Insomma, l'idea comunque è di allargare quest'anno su due palchi dentro alcune giornate, come il 24 e il 25 giugno, dove invece ci avremo Noiz Narcos e Nitro più Kid Yugi, quindi prettamente rap da un palco, mentre dall'altro ci saranno il Bunker 44 e più Fuera, più tanti altri gruppi che ancora dobbiamo annunciare. Il 24, diciamo, è stata annunciata anche Meg, intanto. È stata annunciata anche Meg, che suonerà prima di Verdena, suonerà sul palco più grande, diciamo. Poi dal 28 fino al 30 luglio invece ci abbiamo Oltre a Mare su Gia Marina, dentro il palco del Becky Bay, dove, insomma, tendenzialmente l'idea nostra era un po' comunque di continuare tutto il lavoro che facciamo su Bologna e di trasportarlo, insomma, dentro un'altra parte della regione, quindi meglio comunque sul mare sicuramente, dove si sta bene dentro i mesi estivi, insomma. E tendenzialmente là faremo, insomma, altri tre giorni di festival, dove ci saranno tra gli altri Cosmo, Venerus, Noiz Narcos, Nitro, Geolier, Kid Yugi, più tanti altri. Insomma, un bel mix di tanta tanta roba. Ti chiedo, per chi volesse prendere i biglietti, trovare informazioni anche su orari, come arrivare, tutte le informazioni, diciamo, più tecniche, dove si possono trovare? Allora, si possono trovare sicuramente sui nostri social, quindi su Facebook, Instagram e TikTok, anche se abbiamo quest'anno. Poi c'è il sito che abbiamo appena lanciato di oltrefestival.com, e poi comunque si possono comprare sicuramente sulle due piattaforme di biglietteria, che sono Ticket One e Boxer Ticket. Quindi là si possono trovare tutti i biglietti, più ci saranno anche tante info su come, okay, su tendenzialmente come accedere all'evento. Detto, insomma, intanto ricordiamo, stiamo parlando di Oltre Festival e Oltre a Mare Festival, che saranno rispettivamente dal 23 al 25 giugno al Parco delle Caserme Rosse, per quanto riguarda Oltre, e dal 28 al 30 luglio a Bellaria e Gia Marina, per quanto riguarda Oltre a Mare. Così facciamo un recap per chi si fosse collegato adesso. Ti faccio un'altra domanda. Come direttore artistico, a livello personale però, qual è la band che ti aspetti di più, o che aspettative hai magari anche su alcuni nuovi, magari più emergenti, che avete chiamato nei due festival? Allora, sì, cioè, da un punto di vista personale, sicuramente diciamo che il gruppo che aspetto di più sono i Verdena, per una questione anche generazionale di età. Penso, ma anche perché non li ascolto dal vivo da tantissimi anni e quindi diciamo che mi incuriosisce molto. Poi mi incuriosisce molto, cioè, tutto quanto il nuovo progetto di Venerus che praticamente, cioè, è uscito praticamente da pochi giorni col disco nuovo, e quindi quello là, insomma, mi piacerebbe ascoltarlo dal vivo sicuramente. Poi di gruppi nuovi c'è Kid Yuji, che dalla parte rap sicuramente, diciamo che il giovane emergente, secondo me, è più interessante di quest'anno della scena rap italiana, e quindi vorrei vederlo anche lui sul palco. Insomma, tanta, tanta roba interessante. In ultimo ti chiedo, ci sono tanti festival, ci sono tante iniziative, soprattutto a Bologna, che negli ultimi anni è un po' esploso dal punto di vista di festival e iniziative musicali. Secondo te, se tu dovessi mandare un invito, un messaggio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici sul perché Oltre Festival merita una visita, diciamo, almeno? Essenzialmente noi siamo da 5 anni, come diciamo, ogni utente viene e può ascoltare più gruppi, più generi musicali diversi, stare praticamente dentro uno dei parchi comunque più belli di Bologna e divertirsi insieme a noi dentro quelle giornate. Perfetto, Amedeo, io ti ringrazio molto per la disponibilità, ci diamo appuntamento a questo punto a Oltre Festival e Oltre a Mare Festival. Grazie mille. Grazie a voi, ciao a tutti e tutte.